Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Allora, speriamo che non ci capiti mai, ma invece può capitare a qualcuno o a tutti noi nella vita di trovarci ad affrontare questioni di natura legale. Ci sono molte persone che possono aver bisogno di un'assistenza di questo tipo, ma a volte chi necessita dell'appoggio di un avvocato rinuncia perché o teme parcelle troppo care, a volte va, come dire, anche ad affrontare una questione di questo tipo con pregiudizio, oppure teme che le consulenze richiedano iter troppo lunghi. E allora si stanno diffondendo da qualche tempo nel nostro paese delle modalità per fare assistenza legale in maniera, passatemi il termine, poi magari i miei ospiti me lo correggeranno, più abbordabile per i cittadini. Ed ecco allora che sono nati, un po' a macchia di leopardo sul territorio, degli uffici legali che in molti si sono affrettati a ribattezzare studi low cost. In realtà la definizione forse più corretta è quella di negozi giuridici, perché in molti casi hanno le caratteristiche di veri e propri negozi con delle vetrine che danno sulle strade principali delle città in cui si trovano, e come tale ci si può entrare, chiedere informazioni ed eventualmente passare all'assistenza legale vera e propria. In realtà i modelli operativi in Italia sono diversi, anche se quasi tutti, non tutti, poi lo specificheremo, hanno preso le mosse dalle liberalizzazioni dell'ex ministro Bersani. Allora noi oggi vogliamo spiegarvi come funzionano queste esperienze, quanto costa avvalersi di un'assistenza di questo tipo, e vorrei soprattutto non far arrabbiare, se fossero in ascolto gli avvocati, non vorrei far arrabbiare l'ordine degli avvocati, non voglio mettere su piani contrapposti queste realtà, ma solo raccontarle, spiegarle ai nostri ascoltatori, se ho capito come funzionano, proprio spiegarle anche come alternative all'assistenza legale dei grandi studi. Allora stamattina abbiamo con noi l'avvocato Cristiano Cominotto, fra i fondatori di Alta, assistenza legale per tutti. Benvenuto a Salva Danaio. Grazie e buongiorno. E poi un ritorno per le nostre trasmissioni, l'avvocato Chiara Romeo, fondatrice del negozio giuridico che nasce a Genova, poi ha già diversi studi appunto su tutto il territorio. Avvocato Romeo, buongiorno e grazie di essere ritornata con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, naturalmente, microfoni aperti ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde che vi dà l'opportunità di fare le vostre domande ai nostri ospiti questa mattina, oppure potete rivolgerci i vostri quesiti al 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. La borsa non manca anche oggi di un pochino turbarci. Perché? Perché ieri Wall Street ha chiuso di nuovo male, mentre l'Europa aveva chiuso bene. L'Europa stamattina sembrava disinteressarsi di quello che è successo ieri sera negli Stati Uniti, era partita con un rialzo di circa mezzo punto percentuale, è arrivata a mezzo punto percentuale circa fra tutti gli istituti europei. Adesso invece c'è già un cambio di umore e si torna a scendere. Parigi meno 0,34, Francoforte meno 0,08, Londra ancora positiva, guadagna lo 0,38%, mentre anche Milano è negativa per lo 0,30% sul FTSE MIB. I migliori titoli di Milano: Pirelli più 1,70, Telecom più 1,24, rimbalza Unicredit di un punto, Impregilo più 0,8, Mediobanca più 0,7, quindi mediamente il settore bancario sembra voler rimbalzare dopo i cali di ieri. Ma non per tutti la strada è la stessa, perché per esempio Intesa perde un punto, Banco Popolare, bocciata da Goldman Sachs, sta perdendo l'1,54%, i peggiori titoli sono Buzzi e CIR, che perdono 2 punti percentuali, ma oggi rimonitoriamo attentamente il rapporto euro-dollaro a 1,3706, il rapporto di cambio in questo momento. Stamattina si è discusso molto di questo ritorno in tutta fretta da Sydney del governatore, del presidente della Banca Centrale Europea, Trichet, dove ha preso parte ai festeggiamenti per il 50° anniversario della Banca Centrale Australiana. Si dice che Trichet sia tornato in tutta fretta a Francoforte per organizzare un vertice, un consiglio straordinario della BCE sulla crisi dei mercati periferici dell'Eurozona in vista del super vertice dei 27 paesi europei convocati appunto a Bruxelles giovedì 11 febbraio. Questa circostanza è stata smentita di fatto, però Trichet è rientrato in anticipo e questo è bastato a far riprendere un po' di respiro all'euro sul dollaro, ma vedremo soprattutto cosa accadrà giovedì a Bruxelles. Direi di lasciare la borsa, andare subito al tema di questa mattina. Oggi parliamo di studi legali low cost. So che questa definizione non piace, adesso però accontentatevi di questa per presentare la nostra scheda. La aspetto è quello di un normale negozio, ma al suo interno non si vendono i tradizionali prodotti di consumo, ma consulenze legali. Si può entrare senza appuntamento, se non c'è fila la consulenza è immediata e il primo colloquio per capire se e come è il caso di procedere con cause contenziosi è gratuito. Sono queste le caratteristiche dei negozi del diritto, una tipologia di studio legale a portata di tutti coloro che necessitano di assistenza e consulenza in materia, senza bisogno di contrattare un appuntamento con una segretaria. Una realtà che, complice la spinta data al settore dalle liberalizzazioni Bersani, sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Dagli studi che mirano a dare al cliente gli strumenti per risolvere il problema da solo, evitando il ricorso al giudice, a quelli che invece assistono la clientela fino alla fase finale. Le modalità dunque sono differenti, ma l'obiettivo comune è quello di fornire un servizio di qualità a costi contenuti. 800 24 0024 è il numero verde per i vostri interventi, le vostre domande in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666. Allora, io ho detto all'inizio che queste iniziative hanno preso le mosse dalle opportunità offerte dalle liberalizzazioni dell'ex ministro Bersani. In realtà l'avvocato Chiara Romeo, fondatrice del negozio giuridico prima a Genova, poi in altre città d'Italia, ci tiene molto a dire che in realtà la sua esperienza è partita qualche tempo prima, avvocato Romeo. Sì, io ho aperto nell'aprile del 2005, dopo lunga gestazione sull'idea del negozio. Un parto plurigemellare, in sostanza. Sì, perché insomma lei immagina che cominciare una cosa del genere in un da zero in un ambiente forense che è sempre stato questo da 2000 anni a questa parte, insomma non è stata una cosa che si poteva fare dall'oggi al domani, quindi ci ho pensato parecchio, però poi si è fatta un viaggio in Perù ed è tornata con un'idea un po' più concreta a casa. Sì, il Perù è stata una dei vari input. In realtà il vero input è fare l'avvocato tradizionale e rendersi conto che la gente ha certi disagi che a volte spesso coincidono anche con quelli dell'avvocato che si ritrova al di là della scrivania e insomma, fra l'altro, anche il dovere un pochino di guardarsi intorno, di vedere dove va la società, cioè non può rimanere rinchiuso nel suo studio ad aspettare i clienti con i capponi sotto il braccio, no? Come succedeva nel 600. Per cui il Perù è stata una delle suggestioni, ma insomma. No, diciamo, tra l'altro spieghiamo anche che cosa ha visto in Perù, perché non è che è stata, come dire, fulminata o illuminata sulla via di Damasco, come si dice in questi casi. Lì ha visto determinate situazioni. In Perù, ma ci sono anche in Turchia, in vari altri posti ci sono. Io ho visto questi tavolini con questi signori che aiutano la gente che non sa scrivere, che deve fare le petizioni al tribunale, magari ex cancellieri, persone che hanno lavorato nell'ambito della giustizia, no? Mm-hmm. E si mettono fuori col loro tavolino, con la loro macchina da scrivere, pestano sui tasti istanze da presentare poi nel palazzo, perché questo è un sistema per aiutare chi in quei paesi non sa leggere o scrivere ancor di più non sa leggere e scrivere in cosiddetto giuridichese. Infatti, ecco, probabilmente noi non abbiamo magari delle situazioni estreme in Italia di persone che non sanno leggere e scrivere, ma non è detto che magari un immigrato che ha bisogno comunque di far valere dei diritti, se lavora per esempio in qualche azienda che non si comporta bene o tante altre cose, magari può aver bisogno anche in maniera estrema pure di questo. Detto questo, però, avvocato, adesso ammettendo che siamo un po' più evoluti, quindi che sappiamo ovviamente leggere e scrivere e abbiamo bisogno proprio di supporto legale perché non sappiamo come gestire una conflittualità che può improvvisamente sorgere nella nostra vita. Voi non fate assistenza legale vera e propria, ma voi, come dire, sponsorizzate la risoluzione della controversia prima di arrivare al banco del tribunale. Sì, noi facciamo assistenza legale stragiudiziale, cioè non facciamo le cause in pratica, perché crediamo profondamente nella, innanzitutto nella diffusione della conoscenza giuridica, naturalmente non a livelli universitari, ma spiegare alle persone quali sono i loro diritti, ma anche quali sono i loro doveri. Per evitare che quindi mettano in atto comportamenti che poi danno luogo a liti, e infatti la consulenza è un ottimo sistema già per evitare le liti. E poi nel caso in cui ci sia una qualche un problema, non dico una controversia già in atto, si dà l'assistenza stragiudiziale per vedere di risolverla senza andare dal giudice. Benissimo. Cose che si possono fare, che molto spesso funzionano. È evidente che noi non abbiamo la bacchetta magica e che per andare d'accordo bisogna essere in due, per cui è ovvio che ci sono dei casi in cui per forza bisogna andare dal giudice. Tra l'altro, come dire, spirito molto nobile, dato quanto sono ingolfati i nostri tribunali, per cui chiaramente meno ci si va meglio è, anche da questo punto di vista. Avvocato Romeo, torniamo da lei tra pochi istanti, anche perché molti ascoltatori cominciano già a chiedere: ma dove sono queste esperienze, io non le conoscevo, per cui, e soprattutto poi anche quanto costa poter utilizzare una consulenza di questo tipo. Avvocato Cominotto, allora voi invece andate oltre la conciliazione, evidentemente nei vostri negozi arrivano le rogne che hanno bisogno invece di arrivare dritte in tribunale. Adesso, a parte questo, tra l'altro noto con piacere che tutte queste esperienze nascono dopo dei viaggi, perché anche lei ha incontrato la collega con la quale ha fondato Alta Assistenza Legale per Tutti, l'avvocato Francesca Passerini, in un viaggio di lavoro in Cina. Sì. Adesso cominciamo in maniera un po' folcloristica, però tutto sommato anche a voi è capitato così. Cioè, ma io credo che i viaggi servano davvero ad aprire la mente. Vero. E a conoscere altre realtà. Io e l'avvocato Passerini ci siamo conosciuti durante un viaggio organizzato dall'Ordine di Milano in Cina, e devo dire che in Cina abbiamo realizzato veramente di come la loro realtà sia diversa dalla nostra. Per cui ricordo, io per esempio ero nella stanza di un grattacielo e avevo davanti un grattacielo in costruzione. Andavo a dormire che erano al 10° piano, il giorno dopo avevano costruito l'11° piano. Proprio a ritmi cinesi si lavora, insomma. Esattamente. Non è un caso che ci sia questo modo di dire. Esatto. Quindi ci siamo detti: senti, ma questa mentalità così aperta, così orientata in tutte le direzioni, perché non provare ad applicarla anche qua in Italia? Tra l'altro io ero andato in Cina perché avevo dei clienti cinesi già allora nel mio studio legale tradizionale, quindi conoscevo la loro cultura, e devo dire che a differenza della nostra, noi italiani partiamo con un'idea e poi iniziamo a crearci tutta una serie di problemi. Oddio, però aspetta, prima di realizzarla pensiamoci bene. Invece i cinesi hanno un'idea, li iniziano e poi i problemi cercano di risolverseli dopo, che poi è anche una realtà anche un po' americana in questo senso. E voi nel 2008 siete partiti con ALT, e in questo caso però il modello è molto diverso da quello dell'avvocato Romeo, perché voi avete un vero e proprio negozio con tanto di vetrina in due città, in due vie anche abbastanza importanti qua a Milano, poi probabilmente vi siete diffusi anche in altre zone d'Italia, però il vostro modello è proprio quello del negozio, quindi una persona passa lì davanti. Esatto, noi siamo uno studio legale a tutti gli effetti che esercita sul lato strada e serve sostanzialmente proprio per avvicinare il concetto dell'avvocato al cittadino. Ci tengo a precisare che per esempio sia io che l'avvocato Passerini e tanti dei soci di ALT sono anche titolari di studi legali tradizionali, quindi per far capire qual è la differenza. Per fare un esempio, il mio cliente tipo nello studio legale tradizionale mi chiama, non può parlare con me, parla con la segretaria, se vuole fissare un appuntamento prima di una o due settimane non riesce ad averlo e spesso parla con un mio collaboratore, non parla neppure con me. Nello studio legale su strada il cliente suona il campanello ed ha un avvocato che lo riceve immediatamente. Non ci sono mai file, mi sta dicendo? Beh, allora se ci sono delle file, perché ALTE ha un regolamento ben preciso, una sorta di questionario di qualità, di regolamento di qualità, se ci sono delle file si può tranquillamente chiedere, ma gli viene proposta di fissare un appuntamento e di venire successivamente. A quel punto il cliente decide se aspettare o arrivare successivamente. Quindi ripeto, le differenze non sono da poco. Infatti, come è andato questo modello da quando lo avete così sponsorizzato, l'avete fatto partire a Milano? Ovviamente mi riferisco in particolar modo all'esperienza di Milano, dove probabilmente per una grande città c'è grande bisogno di professionisti di questo tipo. Ma guardi, era una cosa che serviva? Guardi, i risultati sono impressionanti. Noi eravamo a Roma per fare il meeting di tutti gli studi legali legali italiani, in questo momento sono 18 studi legali, siamo cresciuti ad una media di uno studio, uno studio al mese, ogni due mesi sostanzialmente, e devo dire che i risultati sono veramente impressionanti. Adesso noi abbiamo circa 100 avvocati che fanno parte del network. Detto in una battuta, avvocato Cominotto, perché devo andare in pausa e poi ci sono anche delle domande degli ascoltatori, che cosa cercano da voi? La celerità dell'intervento o le tariffe più contenute? Io credo che vogliono il contatto diretto con l'avvocato, vogliono parlare direttamente con l'avvocato. Il contatto umano è ancora fondamentale. Vogliono chiarezza, questo prima di tutto. Benissimo. Più che tariffe contenute. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, oggi parliamo, come dire, di quelli che in molti hanno già definito studi legali low cost. Lo ha fatto anche Dario Di Vico sul Corriere della Sera qualche giorno fa. Arrivano i negozi di avvocati e noi ne abbiamo interpellati alcuni. Abbiamo voluto mettervi a disposizione l'esperienza di ALT, assistenza legale per tutti, e l'esperienza del negozio giuridico. Rispettivamente abbiamo i due responsabili, l'avvocato Cristiano Cominotto e l'avvocato Chiara Romeo. Allora, abbiamo già spiegato all'inizio come funzionano, modelli diversi, ma tutti hanno l'obiettivo ovviamente di cercare di limitare al massimo le conflittualità che ci possono capitare nella vita. In qualche caso si cerca di evitare di arrivare in tribunale, come è nell'esperienza del negozio giuridico dell'avvocato Romeo. In qualche caso invece bisogna andare oltre. Allora abbiamo l'avvocato Cominotto, appunto, che cerca appunto di portare avanti anche le cause più complicate, non perché l'avvocato Romeo non lo faccia, ma come dire, un po' lo spirito è diverso. Allora, tra l'altro, c'è anche un altro tema molto interessante da analizzare, che è quello dei costi di un servizio di questo tipo, perché chiaramente il tema low cost ci richiama sempre a riduzione di tariffe e parcelle. E allora come funziona, come facciamo anche a stabilire quanto possiamo spendere per consulenze di questo tipo? Perché non è facile, le cause, le azioni legali possono durare anni, si possono risolvere con una conciliazione, come ci diceva l'avvocato Romeo, per cui sicuramente anche questo è un terreno molto delicato, adesso affronteremo. Prima di tutto la domanda di Mario da Modena, però. Mario, buongiorno. Buongiorno. Siamo qua. Sì, abbassi subito la radio, per carità del cielo, grazie. Sì, subito. Mi Eccoci. Fermo. Ecco, senta, sto seguendo la vostra trasmissione. E mi chiedevo presso quale città è funzionante questo servizio. Ce ne sono tanti, sì. E come fare per rintracciare questi uffici? Certo. Allora, cominciamo col negozio giuridico dell'avvocato Romeo. Avvocato, voi siete partiti da Genova, poi avete esteso la vostra esperienza a 4 città, presto aprirete a Firenze. Come facciamo ad avere tutte le informazioni su quello che fate e soprattutto su come trovarvi? Si va sul sito, che è www.ilnegoziogiuridico.it, e lì ci sono tutte le informazioni del caso. Benissimo, ci puoi ricordare le città dove siete? Siamo a San Giuliano Milanese, Rimini, Como e Genova, e adesso poi entro marzo apriremo Firenze. Ha sentito l'ascoltatore di Modena, bisognerà attivarsi anche in Emilia Romagna, mi pare di capire. Infatti, ma l'obiettivo la è quello. La selezione degli avvocati non è semplice da fare. Ecco, infatti, è anche quello bel tema. È per quello che noi andiamo piano, ma chi va piano va sano e va lontano. Avvocato Cominotto, per quello che vi riguardi, invece noi ovviamente abbiamo focalizzato un po' la nostra attenzione su Milano all'inizio della trasmissione, ma in realtà vi siete estesi anche voi. Alta, assistenza legale per tutti, dov'è? Ma guardi, noi abbiamo ricevuto più di 1500 richieste di studi legali da 140 città in Italia di aderire alla nostra iniziativa. Oggi noi abbiamo 2 studi a Milano, 2 studi a Roma, Napoli, Ancona, Livorno, Parma, Rimini, Piacenza, Udine, Caserta, Potenza, Olbia, Perugia, Teramo, Seregno. Alcuni di questi studi non sono ancora sul sito e molti altri ne seguiranno, perché al convegno di Roma erano presenti 5 nuovi studi che verranno inseriti sul sito successivamente. Però invito tutti ad andare sul sito www.assistenzalegalepertutti.it, che sempre in aggiornamento lì troverà le sedi e gli indirizzi dei nostri studi. Ce ne sono anche altri, c'è la Casa del Diritto, c'è Il Parere, magari l'ascoltatore di Modena, a chi ce lo chiederà, se ci scriverete appunto vi daremo una serie di indirizzi utili per potervi documentare al meglio appunto su queste realtà. Riccardo da Rovigo introduce un tema molto interessante. Riccardo, e le assicuro che ci stanno scrivendo in tanti proprio per avere delucidazioni proprio sullo stesso argomento. Riccardo. Ah, buongiorno, senta, io chiamo dalla provincia, ma a parte la provincia sono una persona che è stata coinvolta più volte in cause legali di tutti i tipi, da cause di lavoro a querele tra vicini, eccetera. Ah, sì, ma vita difficile, Riccardo. Sì, ma è casi della vita, sai, uno, io non è che cerco di litigare, è che mi ci ritrovo coinvolto. Detto questo, ho notato spesso, perché io sono un fanatico del computer, me ne intendo, io preparo dei faldoni incredibili per questi avvocati. Tranne poi scoprire che quando loro depositano le mie memorie difensive oppure come attore, mi ritrovo che stralciano alcune parti dei miei discorsi senza avere una chiara idea, secondo me spesso vuol dire in sostanza non c'è una specializzazione di avvocati. Io chiedo, questi negozi giuridici potrebbero fare dei pacchetti specializzati, perché poi le vertenze legali che riguardano il cittadino medio sono sempre quelle, sono rapporti col vicinato in genere. Sono rapporti di lavoro e poi cosa c'è ancora? Non entro nel penale, perché nel penale diciamo. No, vabbè, lì poi certo, probabilmente sì, chissà. Adesso chiediamo, magari si affrontano anche queste tematiche. La vita di un cittadino. Io chiedo, questi negozi giuridici hanno dei pacchetti standard con riferimento, ad esempio, rapporti del vicinato, in modo tale che io possa anche capire il costo che vado incontro, cosa che io non sono mai riuscito a capire con avvocati. Allora ci porta dritto, Riccardo, ci porta dritti appunto sulla strada delle parcelle, probabilmente. Sentiamo l'avvocato Romeo cosa può dirci a proposito dell'osservazione fatta da Riccardo. Lui dice: ma insomma, perché non si specializzano in realtà su certe questioni in modo tale che sia più facile anche per noi? Ma lui, perché viene così talmente documentato che a volte si sente insoddisfatto e frustrato per l'assistenza legale che viene prestata, probabilmente. Ha ragione dell'osservazione che fa l'ascoltatore, lei che proprio punta anche sul, come dire, rapporto all'insegna della grande umanità con la sua clientela. Dunque, il discorso che introduce l'ascoltatore non è in realtà comporta molte questioni. Intanto lui sta parlando di contenzioso giudiziario. Il contenzioso giudiziario effettivamente non è semplice. Non si possono, a mio parere, fare dei pacchetti, perché non si sa, la causa è un qualcosa, è veramente un mistero, non si sa che cosa può accadere in causa, quindi uno pensa magari di avere una controparte e invece poi in causa se ne ritrova sei. Per cui perché la tua prima controparte chiama un terzo, il quale terzo poi chiama un altro a garantire, succedono le cose più impensate nelle cause, per cui non è semplice, anzi direi che è quasi impossibile fare dei pacchetti. Ci sono delle situazioni in cui si può fare, perché più o meno si sa che l'attività è quella, per esempio nelle separazioni consensuali, si sa che si fa un ricorso, un'udienza e praticamente basta, al di là della trattativa precedente che spesso può essere molto complicata, e allora lì si può dire la separazione può costare tot. Ma sulle cause è una cosa molto difficile, pressoché impossibile. Infatti capisco. Sull'assistenza stragiudiziale invece, come facciamo noi, è quello che stiamo facendo, cioè creare dei pacchetti. Per esempio noi un parere orale, redazione ed invio di una lettera a firma del negozio giuridico e poi un intervento orale con la controparte lo facciamo pagare 250 euro più IVA, cassa, insomma, no? Cerchiamo di fare i pacchetti, perché capiamo, la sentiamo molto forte. Però in sostanza è possibile farlo, da quello che capisco, sì. Avvocato Romeo, se, come dire, l'esito di tutta la pratica si può già mediamente riconoscere sin dall'inizio, perché altrimenti, data l'imprescindibilità appunto di tutti gli eventi stragiudiziale, si può. D'altra parte è evidente che l'avvocato si deve mettere in una logica un pochino più imprenditoriale e anche un po' rischiare, però la clientela deve capire che i professionisti hanno delle spese fortissime, e per cui bisogna capire anche il nostro punto di vista, non è soltanto il punto di vista del cliente, perché noi in proprio, non abbiamo nessun, non abbiamo ticket, non abbiamo ferie, non abbiamo mutua, non abbiamo niente, insomma non è semplice. Infatti, allora, avvocato Cominotto, per quello che riguarda invece l'esperienza di assistenza legale per tutti, è possibile, come dire, in qualche maniera impacchettare gli interventi, settorializzarsi, nel senso voi per esempio nell'ambito delle vostre, dei vostri uffici avete chi si occupa di diritto di famiglia piuttosto che di rogne con il condominio eccetera, oppure ogni caso va preso in considerazione per sé, ogni avvocato comunque in grado di stabilire un rapporto ovviamente con la clientela a prescindere dal... Non è che lo spedite da una parte all'altra dell'ufficio a seconda del caso. Ma ALT, come dicevo prima, è una sorta di regolamento di qualità. Uno dei punti di questo regolamento di qualità è proprio la specializzazione degli avvocati. Compatibilmente, naturalmente, con il caso, ogni studio legale è diviso per avvocati a seconda delle specializzazioni, per cui il cliente generalmente si deve rivolgere all'avvocato specializzato in quella materia, quindi l'avvocato specializzato in diritto del lavoro piuttosto che in diritto di immobiliare, piuttosto che in diritto di famiglia, ed abbiamo anche gli avvocati specializzati in diritto di minore, che è ancora un aspetto più specifico rispetto al diritto di famiglia. Per quanto riguarda invece le tariffe, se mi permette, giusto per rispondere. Allora, le tariffe praticate dagli studi legali di cui stiamo parlando questa mattina, gli studi legali low cost, per abbreviare un po', risintetizzare la questione, li continuo a definire in questa maniera: avvocato Cominotto, assistenza legale per tutti. Da quello che capisco, voi fate una prima consulenza gratuita al cliente che viene da voi, attirato magari dalle vostre vetrine sulle strade appunto delle città dove vi siete piazzati, e poi siete in grado, giudicando un po' dell'assistenza che sarà necessario dare al cliente, anche una sorta di preventivo. Ma è possibile stabilirlo a priori per delle iniziative legali, perché nessuna si può sapere come andrà a finire, insomma, come funziona esattamente la questione del preventivo che siete in grado di fornire al cliente? Ma guardi, il preventivo è un qualche cosa che è già ultra riconosciuto, per esempio nei paesi anglosassoni, è un qualche cosa che paradossalmente è conosciuto soprattutto dai grandi studi, perché quando tu lavori con grosse società multinazionali ti viene chiesto in anticipo il costo complessivo anche di procedure complessissime. È un fatto, per esempio, che è conosciuto a quegli avvocati che lavorano con la pubblica amministrazione, che a sua volta ti richiede, per darti il mandato, il prezzo già in anticipo di procedure estremamente complesse, per esempio nell'ambito del diritto amministrativo. Secondo noi non è impossibile fare un preventivo, anche non sapendo in anticipo quanto durerà la causa, perché banalmente, per fare un esempio molto semplice, io posso prevedere una tariffa base e poi prevedere che ogni udienza successiva costerà una certa somma, e quindi in questo modo garantirmi. E poi devo dire, noi generalmente difficilmente abbiamo sbagliato, se si sbagliasse potrebbe anche andare a carico dell'avvocato, insomma ci sta che tutto sommato se c'è un errore di valutazione se ne paga le conseguenze. Però in sostanza si può accompagnare per mano il cliente anche dal punto di vista dei costi che deve sostenere, non è che si debba necessariamente dire una cifra all'inizio, ma magari lo si può informare anche del fatto che strada facendo le cose si possono complicare, che la tariffa potrebbe variare, anche quello insomma un modo per essere corretti. Sì assolutamente, questo ripeto è quello che già si fa da tanti anni in Inghilterra e che i grossi studi fanno già in Italia nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle grandi imprese, quindi non è una cosa. Allora, mi piacerebbe capire se avete creato meno disappunto o qualche tremore in più nell'ambito dei grandi studi legali che operano nel nostro territorio. E allora io, per sapere questo, ho interpellato questa mattina un amico, oltre che un collega, un professionista, direttore del mensile di Top Legal, Nicola Di Molfetta. Nicola, ciao, benvenuto a Salva Danaio. Ciao Deborah, grazie mille. Allora, Top Legal è proprio il mensile del settore, e proprio questo mese in un editoriale, se non sbaglio, avete indagato sulla realtà dei negozi legali, e io leggo testualmente quello che avete scritto perché mi piacerebbe soffermarmi soprattutto su un aspetto. Allora, dite, la prima è che i negozi legali nella maggior parte dei casi sono una cosa seria, e questo lo speriamo, però ne stanno nascendo tanti sul territorio, Nicola, e quindi dobbiamo forse anche un po' monitorare questo fenomeno, dobbiamo stare anche un po' attenti. Noi continuiamo a monitorarlo perché ci interessa molto, è un fenomeno che apre il mercato con una terza via, se volete, rispetto all'offerta dei servizi di assistenza legale, perché va ad intercettare uno specifico settore della domanda. Non è un caso, insomma, che per esempio i negozi del network ALT solitamente non sorgono in centro città, ma sorgono in zone vicine, limitrofe al centro. intercettano una domanda specifica che chiaramente non preoccupa i grandi studi d'affari che si muovono chiaramente in un altro settore, in un altro ambito, ma di sicuro importa all'interno del mercato dell'offerta dei servizi legali, dell'assistenza legale, un nuovo modo, un nuovo concetto per occuparsi di questo. Noi abbiamo voluto sottolineare in quell'editoriale che tu citavi il fatto che questo è un fenomeno serio, perché appunto oramai se ne contano decine di studi, credo che Alzi sia arrivato adesso a 17-18 studi in tutta Italia, e più ha dato, come dire, ha ispirato la nascita di numerose altre iniziative. Mm-hmm. Bergamo, nel sud Italia, spesso oggi che la professione forense presenta seri ostacoli a chi anche in età giovane vuole entrare sul mercato, trova nella formula del negozio legale una soluzione alternativa per riuscire ad entrare sul mercato e riuscire ad avere da subito un certo certo di clientela. Certo, cerchiamo adesso però anche di scoraggiare che tutti coloro che escono dalle facoltà di giurisprudenza si buttino su questa professione, perché anche lì bisogna, come dire, essere professionali anche da questo punto di vista. Ti ringrazio per questa sollecitazione, Nicola, perché c'è una domanda di un'ascoltatrice da Monza proprio su questo aspetto. Loredana, buongiorno. Sì, buongiorno. Io appunto, mia figlia si laurea quest'anno in giurisprudenza, ero curiosa di sapere se questa potrebbe essere un'opportunità. Questa, sì, che ha già risposto parzialmente, cioè che eventualmente può fare pratica presso questi studi, se ce n'è uno qua vicino. E poi un'altra domanda, ma è una specie di franchising che alla quale si viene far due, tre, quattro sì, un po' come le reti immobiliari, possono aprire un negozio a chi si devono rivolgere. Loredana, la ringrazio per la sua domanda, la concretizziamo subito la risposta intanto con l'avvocato Cominotto, poi sentirò anche l'avvocato Romeo su questo, perché prima ci rappresentava la difficoltà anche di reclutare avvocati per il tipo di assistenza che fa negozio giuridico sul territorio, visto che in Emilia Romagna per esempio esperienze di questo tipo non ce ne sono, per cui magari vediamo di mettere insieme anche i due aspetti. Comincio con l'avvocato Cominotto. Ma guardi signora, noi a breve apriremo uno studio legale a Seregno, per cui se lei si vorrà contattare in quel momento lo studio legale di Seregno, io non so se ha già siete disposti a valutare anche un neolaureato. Certo, però ecco, per aprire gli studi legali nostri devi già essere avvocato, quindi un neolaureato, un praticante abilitato non può aprire uno studio legale di questo genere, perché con il contatto diretto con le persone deve avere una certa qualifica, una certa preparazione, una certa professionalità. Però detto questo, invito la signora, ripeto, quando aprirà lo studio di Seregno e quando verrà reso noto sul sito, a contattarlo direttamente. Magari lo chiamerò anche io, perché no, se vuole, se vuole magari mandarci perché una magari mail, magari se su questo ufficio ci sono già 5 professionisti preparati, magari una persona che comunque, come dire, inizia la sua formazione in questo ambito, magari si specializza sin dall'inizio della sua carriera e diventerà anche più brava di voi, magari, no? Speriamo, ma io me lo auguro. Infatti, perché no? Avvocato Romeo, la sua posizione invece sul tema sollecitato dalla nostra ascoltatrice di Monza? Ma dunque, io mi vorrei puntualizzare molto così brevemente quello che lei diceva, e cioè vorrei dire, non è che io ho rappresentato una difficoltà nel reclutare avvocati per il negozio. No, ci vuole del tempo, nel senso ci vogliono le professionalità giuste. In realtà i negozi, cioè la vera novità per quel che riguarda il negozio giuridico non è la vetrina, è la nascita di una nuova generazione di avvocati, gli avvocati di pace. Ora, per cambiare in modo così epocale la propria mentalità di avvocato, come dicevo prima, che fa le cause da 2500 anni, non è semplice, è un'attitudine, ci vuole una certa attitudine al pionierismo che non tutti hanno. Molti avvocati si sono rivolti a noi. Io personalmente penso, e così anche gli altri miei colleghi, che per fare consulenza e assistenza stragiudiziale sia quasi più difficile che fare le cause, perché devi saper prefigurare al cliente moltissime situazioni, cioè dire se lei fa così succede questo, se lei fa così succede quest'altro. Insomma, per cui ci vuole scienza e anche molta esperienza di vita e di lavoro. Per cui insomma bisogna trovare le persone giuste. Certamente. Che lo possano fare. Certo, perché proprio come ho specificato dall'inizio, la vostra iniziativa muove da presupposti leggermente diversi rispetto all'altra realtà che stiamo lo stesso descrivendo. L'ultima domanda, ma deve essere telegrafico, quella di Paolo da Roma. Buongiorno Paolo, rapidissimo. Buongiorno, innanzitutto complimenti. Vada, vada la domanda che sto chiudendo, così. Grazie. Dunque, la domanda è questa, perché gli avvocati non si fanno pagare con una parte fissa e una parte su percentuale, cioè tolti i costi fissi, poi si guadagna su una percentuale di quello che si ottiene dall'eventuale transazione stragiudiziale o giudiziale. Grazie Paolo, sì, avvocato Cominotto deve essere telegrafico più di Paolo. Sì, noi lo facciamo, patto di quota lite, e veniamo pagati solo a risultato raggiunto, secondo tra l'altro le indicazioni che c'erano state date dal Consiglio dell'Ordine di Milano e moduli del Triveneto. Per quindi cui tra l'altro ecco, anche c'è anche questa possibilità. Infatti, benissimo, io purtroppo non ho più tempo, ci sarebbero state tante altre cose da raccontare, ma magari come sempre lo prometto tutti i giorni, ritorneremo di sicura a chiacchierare con voi. Per tutti coloro che volessero avere maggiori informazioni, scriveteci, noi dirotteremo le vostre domande sia all'avvocato Chiara Romeo che all'avvocato Cristiano Cominotto. Intanto grazie per essere stati con noi, buon lavoro naturalmente con le vostre esperienze. Salvadanaio torna domani, buona giornata.